questo giorno di Simone Spezia. Speciale Bruxelles. Una buona giornata da Simone Spezia, se buona giornata si può definire quella di oggi. Riprendiamo i nostri speciali che stiamo dedicando agli attentati di Bruxelles. Andremo avanti sostanzialmente per tutta la giornata a raccontarvi queste ore terribili per la capitale belga e capitale delle istituzioni europee. Lo faremo ovviamente con racconti, testimonianze, qualche analisi. Adesso probabilmente più l'ora della cronaca, del racconto, del capire che cosa sta effettivamente succedendo in una fase nella quale sappiamo per certo che ci sono state tre esplosioni, due avvenute all'aeroporto Porto e una avvenuta in una stazione della metropolitana, ma è ancora incerto anche solo il numero delle vittime e anche il numero dei feriti, perché fonti diverse e tutte ufficiali, tra l'altro, perché parliamo del governo belga da una parte e dei vigili del fuoco dall'altra, danno cifre diverse, 21, 13, non è ancora chiaro. Di certo, appunto, la capitale belga è stata colpita da una parte, appunto, nell'aeroporto, e dall'altra nel suo cuore, il cuore appunto delle istituzioni europee. Se considerate che appunto Maelbeek, la stazione della metropolitana dove è avvenuta l'esplosione, dista appena 400 metri a piedi dal palazzo della Commissione europea. Che cosa sappiamo? Appunto, tre esplosioni, due all'aeroporto di Zaventem poco dopo le 8 di mattina. Alcuni media hanno riportato che ci sarebbero stati degli spari e delle urla in arabo prima che tutto avvenisse. Le esplosioni sarebbero avvenute nei pressi del check-in dell'American Airlines e un'altra forse vicino ad un banchetto al negozio di Starbucks. Voci incontrollate si sono diffuse nell'arco della mattinata sull'ipotesi che ci fossero altre bombe che all'interno dell'aeroporto inesplose, e questa è un'altra notizia che se troverà conferma, troverà inevitabilmente conferma solamente nelle prossime ore. L'altra bomba alla fermata appunto della metropolitana di Maelbeek, siamo nella piena zona delle istituzioni europee. Inizialmente si era pensato che ci fossero state esplosioni anche in altre stazioni, ma al momento conferme di questo non ne abbiamo. Ovviamente chiusi i cieli sopra Bruxelles, in particolare per quanto riguarda gli atterraggi appunto su Zaventem, e chiuse le frontiere. Di pochi istanti fa la notizia che è stata chiusa anche la frontiera con la Germania dopo quella con la Francia. Questo il quadro complessivo e, diciamo così, estremamente sommario che vi possiamo dare al momento. Abbiamo in studio con noi, e prosegue questa lunga diretta, la nostra Valeria De Rosa. Valeria, eccoci di nuovo, buongiorno. Buongiorno a te Simone e di nuovo un buongiorno ai nostri ascoltatori. Lo abbiamo raccontato fin dai primi momenti, fin da quando abbiamo assistito anche noi attraverso quello che leggevamo e vedevamo su Twitter, ancora prima che sulle agenzie, quanto stava accadendo a Bruxelles. Velocemente io farei un punto su quelli che sono i dati che abbiamo fino a questo momento. Lo dicevi giustamente tu, il bilancio è del tutto provvisorio e le voci sono voci tutte ufficiali, perché abbiamo i vigili del fuoco da una parte e lo stesso Premier Michel, che ha parlato poco fa in conferenza stampa e che per prima cosa ha detto: è successo quanto ci aspettavamo. A questo punto la reazione deve essere forte e unitaria. Il Premier ha parlato di 28 morti, 13 i morti nella doppia esplosione avvenuta all'aeroporto questa mattina poco prima delle 8 e 15 morti invece all'esplosione del vagone della metropolitana alla stazione di Maelbeek. Il numero dei feriti, il Premier Michel ha parlato di 35 feriti, ma anche qui il numero è molto variabile, perché dalle testimonianze che abbiamo letto, soprattutto di coloro che erano nei pressi della stazione della metropolitana, raccontano tutti che ci sarebbero feriti ovunque, quindi il numero è variabile tra le 30 e le 50 persone, alcuni sarebbero anche molto gravi. Quindi lo ripetiamo, è un bilancio del tutto provvisorio, anche perché sotto le macerie all'aeroporto potrebbero esserci altre vittime. Lo dicevi poco fa, le frontiere sono sostanzialmente chiuse, anche se non è, diciamo, una decisione proprio ufficiale, ma in realtà poi i treni non vanno, quindi non si può entrare e uscire dal Belgio né verso la Francia né verso la Germania. Poco fa è stata chiusa la stazione centrale di Anversa E quindi anche qui, ancora una volta, tutti i mezzi di trasporto pubblici sono fermi perché da questa mattina è chiusa la stazione centrale di Bruxelles, sono chiuse tutte le fermate della metropolitana, lo dicevamo, ovviamente è chiuso l'aeroporto e tutti i voli sono stati dirottati, quelli diciamo che è stato possibile dirottare sull'aeroporto di Charleroi e quindi diciamo il Belgio è di fatto isolato in questo momento, non solo Bruxelles ma il paese intero. Allora, Valeria, innanzitutto ti ringrazio e poi continuerai ad aggiornarci ovviamente anche sulle cose che usciranno nel corso di questo speciale. Finora noi abbiamo dato una visione, per così dire, dall'alto, no? Abbiamo dato un quadro di quello che sta succedendo. Adesso scenderemo nel dettaglio e andremo sul territorio, andremo all'aeroporto dove c'è Maura Bertanzon, la nostra collega e la nostra collaboratrice che sta seguendo tutta la vicenda per noi, almeno da quel lato, e poi parleremo con Fabrizia Laneve, anche lei è già in linea con noi, è una donna italiana, il suo ufficio è esattamente davanti all'aeroporto e ci racconterà che cosa ha visto nelle ore immediatamente e nei minuti immediatamente successivi all'attentato, ma prima il traffico. Ed eccoci di nuovo a raccontare, e lo faremo sostanzialmente per tutta la giornata, quello che è successo a Bruxelles, gli attentati di questa mattina, con le notizie che si accavallano ancora in questi minuti. Vogliamo andare innanzitutto davanti all'aeroporto dove ci sono state le prime due bombe questa mattina, le prime due esplosioni e ci colleghiamo con Maura Bertanzon che si trova là davanti per un racconto per capire cosa sta succedendo perché è stata anche un'evacuazione piuttosto complicata oltre naturalmente al fatto che la polizia sta ancora lavorando all'interno, i vigili del fuoco altrettanto per capire se ci possano essere altre vittime oltre a quelle che sono state contate fino adesso. Maura, eccoci, buongiorno. Buongiorno Simone. Beh, la sensazione è che dopo le prime ore in cui non si sapesse bene come organizzarsi adesso, quantomeno per quanto riguarda i passeggeri da evacuare, la situazione si sta via via normalizzando. Sono uscite moltissime persone, specialmente nell'ultima mezz'ora, che sono state caricate veramente nel giro di pochi minuti su dei bus che suppongo adesso vadano verso il centro città. Una delle destinazioni segnate su un bus davanti a me è Eurocontrol, che quasi è un po' del sarcastico, ecco. E si sono succedute diverse testimonianze, abbiamo ascoltato diverse persone uscire, ecco, quella più significativa era proprio di un dipendente dell'aeroporto che si trovava vicinissimo alla prima esplosione, lui che ci ha raccontato che ha sentito delle grida in arabo prima appunto della prima deflagrazione e che non è fuggito, si è nascosto sotto al banco appunto dove stava lavorando e subito dopo che la polvere si è un attimo diradata ha cominciato a soccorrere le persone che si è trovato davanti e il panorama ha semplicemente commentato è stato veramente un orrore, ha visto dei morti, ha visto moltissime persone ferite, soprattutto alle gambe, aveva del sangue sulle mani, ha detto non il suo, ma mentre ci raccontava quello che aveva visto. Altri si sono salvati più o meno per miracolo perché si trovavano dentro più riparati, magari dentro a un bar. Un'altra signora invece ha detto che ha evitato, penso alla seconda esplosione, perché aveva dovuto spostarsi di pochi metri, andare a un altro desk perché non poteva imbarcare dove era in quel momento il suo cagnolino. Le persone che stanno uscendo in questo momento credo siano anche soprattutto persone arrivate con i voli del mattino e bloccate anche dentro l'aeroporto nell'attesa che la situazione si normalizzasse. Dunque, o non hanno visto sentito niente, o magari hanno sentito solo da lontano quello che stava succedendo. Qualcuno ci ha raccontato che i piloti comunque hanno cercato di rassicurarli al massimo e già di dare delle prime informazioni, ma che una volta usciti in un primo momento si sono trovati un po' allo sbaraglio. Un signore che arrivava dall'America ci diceva sì, non ci hanno incanalato effettivamente verso l'uscita, sarei potuto andare da qualsiasi parte dentro l'aeroporto, muovermi liberamente, mescolarmi alle ambulanze, ai poliziotti. Dunque, ecco, veramente l'impressione è che E che le stesse forze dell'ordine siano andate nel panico nel momento nel quale è avvenuto tutto questo, in sostanza, no? E anche soccorso. Colte di sorpresa. Senti, Maura, brevemente, cerchiamo anche di descrivere per i nostri ascoltatori che magari non sono riusciti ad accedere ad internet, non sono riusciti a vedere le immagini, il livello di devastazione che caratterizza in questo momento quella parte dell'aeroporto colpita dalle bombe, perché le immagini ci mostrano i vetri completamente esplosi e poi naturalmente all'interno la devastazione più grande. Sì, ovviamente non ha, nessuno è stato fatto accedere all'aeroporto, però appunto ci hanno raccontato che vetrate, anche c'erano anche dei tetti in vetro, quindi sono crollati proprio i tetti sopra le persone. La gente raccontava di tantissima polvere, di tantissimi detriti dappertutto, sulle scale, negli ascensori, ecco, anche consideriamo che comunque l'aeroporto ha subito dei lavori di ristrutturazione da pochissimo, è stato veramente rimesso a nuovo, era con un design anche molto moderno, anche molto, diciamo, luminoso, quindi anche con l'uso effettivamente di materiali di vetro o di acciaio, cose leggere che si possono appunto rompere facilmente, soprattutto in questi casi, ecco. Allora, Maura Bertanzoni, io intanto ti ringrazio, torneremo a chiamarti ovviamente nel corso del nostro speciale, abbiamo in linea tra l'altro e parleremo con lui tra un attimo Dario Prestigiacomo, che è un collega giornalista dell'agenzia Vista, si trova davanti alla stazione di Malbec, quella dove c'è stato l'altro attentato, lo ricordiamo, siamo a 400 metri dal Palazzo della Commissione Europea, siamo nella piena zona delle commissioni, appunto della Commissione delle istituzioni europee. Allora, Valeria De Rosa ha un aggiornamento e poi andiamo anche alla testimonianza appunto davanti all'aeroporto del momento dell'esplosione. Valeria. Sì, Simona, un velocissimo aggiornamento perché secondo Al Arabiya English ci sarebbero due sospetti arrestati, due sospettati quindi che sarebbero già finiti in manette dopo gli attacchi di questa mattina. Ovviamente anche questa è una notizia che sicuramente arriva da un sito ufficiale, ma dobbiamo attendere una conferma più precisa da parte della procura di Bruxelles. Ci sarebbero comunque due persone fermate per gli attentati di questa mattina. Sì, a proposito di arresti, vale la pena ricordare anche che questi attentati avvengono a 4 giorni dall'arresto di Saleh Abdeslam, appunto il super ricercato per gli attentati di Parigi, e vedremo anche dalle rivendicazioni che inevitabilmente arriveranno se le due cose sono collegate. Fabrizia Laneve, buongiorno, se tale si può definire, buongiorno, benvenuta. Buongiorno Simone, sì, in effetti noi siamo in una situazione surreale da stamattina, ma forse anche a partire da novembre, dai fatti del Bataclan. Del Bataclan, naturalmente. Allora, il suo ufficio, lei lavora per un'azienda farmaceutica, si trova esattamente davanti all'aeroporto, in sostanza. Che cosa ha visto e sentito stamattina? Sì, lavoro qui a Zaventem. Quando è avvenuto l'attentato, insomma, è stato poco dopo, io sono uscita di casa per recarmi qui in ufficio. Quindi non ho potuto vedere molto, se non moltissime ambulanze, pompieri. In realtà noi sì, al di là dello shock e della situazione surreale che stiamo vivendo, stiamo vivendo anche sotto altri aspetti questi episodi. Per esempio, in aeroporto non ci sono soltanto le persone che partono, ma ci sono anche, per esempio, mia nipote stamattina doveva andare a scuola e lì c'è la fermata degli autobus. Lei abita proprio a Zaventem, stamattina in bicicletta è arrivata fino in aeroporto per prendere l'autobus. Certo, senza considerare poi tutta la gente che ci lavora negli aeroporti, oltre evidentemente ai passeggeri, perché non sono solamente quelli. E ovviamente subito dopo l'attentato quello che avete visto è stata una gran confusione, suppongo. Certamente, qui in ufficio per esempio noi abbiamo tanta gente che si reca qui in ufficio con i trasporti pubblici e che non sa come tornare a casa, quindi ci siamo organizzati per dare passaggi o per la compagnia si è organizzata per provvedere con passaggi, insomma, con viaggi privati, insomma, con taxi privati. In una città completamente blindata, chiaramente. Siamo blindati. Io lavoro qui a Zaventem, ma abito non lontano da Malbec, dove c'è stato, dove c'è stato il secondo attentato nella stazione del metro. Quindi con ogni probabilità c'è gente che non potrà tornare a casa a dormire stasera, e quindi sulle platform dei media ci stiamo organizzando per offrire, chi ha una stanza in più, come il mio caso, per offrire profilo ospitalità a chi rimarrà. È un luogo nel quale dormire. Io nel ringraziarla mi sposto esattamente appunto a Malbec. Grazie a Fabrizio Laneve per la sua testimonianza, dove si trova appunto un collega dell'agenzia Vista, Dario Prestigiacomo. Dario, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Ci dai un quadro della situazione, un'idea di quello che sta succedendo in queste ore là, che è l'altro luogo, lo ricordiamo, dove c'è stata un'esplosione. Inizialmente si era diffusa la voce che fossero state colpite 3 stazioni della metropolitana. In realtà, a quanto pare, è stata colpita solamente quella. Dario, innanzitutto ti chiedo una conferma su questo, perché mi sembra che le voci si siano rincorse un po' troppo, come forse è inevitabile che avvenga in situazioni di questo genere. E poi ti chiederei di darci un'idea di quello che sta succedendo, di qual è la situazione. Sì, vi confermo che da quello che si apprende qui, proprio a 2 passi dalla stazione di Malbec, questo è il luogo dove è avvenuto l'esplosione. In un primo momento si parlava anche di Schumann, di un'altra stazione Arlua che non è molto distante da qui, ma il motivo di tali voci è dettato dal fatto che si tratta di 3 stazioni molto vicine l'una all'altra, e siccome a quanto pare l'attentato è successo all'interno del tunnel, da lì c'è stata una deflagrazione che si è sentita anche nelle altre stazioni. Ci sono state scene di panico sia qui a Schumann, proprio sotto il Consiglio europeo, la Commissione europea, e sono stati dei casi di malore, eccetera, anche nell'altra stazione, ma i feriti e purtroppo i morti sono stati all'interno della stazione di Malbec, e accanto alla stazione di Malbec, nel palazzo Resident Palace, che ospita solitamente la stampa internazionale, si sta allestendo un primo centro sia per i familiari delle vittime, sia per dare maggiori informazioni a chi ha degli amici o dei parenti che sono stati coinvolti in questa esplosione. Allora, questo è il quadro che ci stai dando adesso. Mi dici com'è la situazione, perché ovviamente all'inizio della mattinata era anche là, così come è stata l'aeroporto, estremamente confusa, anche con difficoltà di comprensione di cosa stesse effettivamente succedendo. Adesso è più apparentemente più tranquilla, sì. Sì, la situazione è tranquilla anche perché il quartiere, essendo un quartiere di istituzioni e di uffici, di lobby, si è praticamente svuotato nell'arco di un'ora, un'ora e mezza. Molti ancora non erano neppure arrivati agli uffici. Ed è caduta la linea. Come potrete intuire, a Bruxelles c'è anche qualche problema di collegamento, evidentemente. Magari proveremo a recuperare il nostro collega più avanti. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati con la nostra Deborah Rosciani. Tra l'altro, mercati che hanno reagito agli attentati di questa mattina. Poi ci ritroviamo subito dopo. Abbiamo gli aggiornamenti con Valeria De Rosa di nuovo. Poi faremo il punto dalla Farnesina. Al momento non risultano italiani coinvolti, ma insomma ovviamente si presta la massima attenzione. Poi c'è un'intervista che ha appena realizzato la nostra Maria Luisa Pezzali con l'ambasciatore italiano a Bruxelles. Ci faremo raccontare anche un po' da lui che cosa sta succedendo. Intanto la pausa per la borsa. Di nuovo in diretta per lo speciale di Radio 24 dedicato appunto agli attentati che sono avvenuti questa mattina a Bruxelles, 2 bombe all'aeroporto e un'altra in una stazione della metropolitana, quella di Malbec. Su questi temi ha tra l'altro appena finito da pochi istanti di parlare il presidente francese François Hollande, che dice che con il colpo a Bruxelles è stata colpita l'intera Europa, e aggiunge: saremo implacabili contro il terrorismo. Intanto Valeria De Rosa, dovremmo avere nuovi aggiornamenti, sì, sul numero di vittime, no? Che, ripetiamo, per l'ennesima volta sono bilanci del tutto provvisori, perché dovremo attendere ancora credo, svariate ore per capire davvero quanti sono i morti e quanti sono i feriti. Comunque il bilancio provvisorio è di 26 morti e oltre 130 feriti, di cui molti in condizioni gravi. Per quanto riguarda, diciamo, la divisione, 11 persone sono rimaste uccise alla doppia esplosione in aeroporto, ferite 81, mentre per quanto riguarda la metro di Molbech, la società dei trasporti ha detto che ci sono 15 morti e 55 feriti, anche qui una decina sarebbero molto gravi. Per quanto ci riguarda più direttamente, massima allerta alla frontiera del Monte Bianco, ma questo era prevedibile e immaginabile, l'allerta sarà scattata a tutte le frontiere. Poco fa, dichiarazione ufficiale di uno dei portavoce della Commissione europea, Margheritis Schinas: siamo insieme, siamo tutti uniti contro il terrore, la nostra solidarietà ovviamente a Bruxelles e a tutto il Belgio. Allora, grazie Valeria De Rosa intanto per questo aggiornamento. Tra un attimo ci collegheremo con i nostri giornalisti a Roma che sono alla Farnesina da una parte, ossia la sede del Ministero degli Esteri, dall'altra parte al Viminale, il Ministero degli Interni, dove oggi pomeriggio ci sarà un vertice, una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza convocato dal ministro Angelino Alfano. A quanto pare dovrebbe esserci anche il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Vedremo di capire se verranno prese, se sono state già prese nuove misure di sicurezza. Ma prima di tutto vi facciamo sentire un'altra intervista. È un'intervista che ha raccolto Maria Luisa Pezzali, l'ha raccolta pochi istanti fa, è il nostro ambasciatore italiano a Bruxelles. Sentiamo. Le ultime notizie sono quelle in parte riferite anche dal primo ministro Michel in questa dichiarazione che ha appena fatto. Sono confermate queste azioni terroristiche molto gravi sia all'aeroporto che in due stazioni della metropolitana. Lui ha detto numerosi morti e numerosi feriti, quindi non c'è ancora un bilancio definitivo, ma sarà sicuramente un bilancio superiore ai 20 morti. Tra l'altro i numeri verdi belgi danno delle cifre discordanti. Insomma, il bilancio sarà un bilancio pesante sia, diciamo, per l'aspetto aeroporto che per l'aspetto di almeno uno dei due attentati nella metropolitana. La città evidentemente è paralizzata perché non c'è neanche sicurezza che diciamo, le azioni terroristiche siano finite, quindi c'è ancora un problema di ricerca degli attentatori e di prevenzione di eventuali ulteriori azioni. Noi, per quanto ci riguarda, stiamo cercando di fare un monitoraggio sulla presenza di feriti italiani negli ospedali. Ovviamente è un compito molto difficile perché gli ospedali danno priorità alla cura e soltanto in un secondo momento procederanno all'individuazione delle persone. Al momento, ambasciatore, non si ha notizia di coinvolgimento di Ma connazionali. questo però è un dato, diciamo, che va preso perché non ci sono le generalità di nessuna delle vittime, quindi non ci sono vittime italiane come non ce ne sono belghe, francesi, cioè è del tutto prematuro immaginare di poter fare a questo momento un bilancio della situazione. Cioè, per il momento c'è una stima delle autorità di sicurezza belghe che parla di almeno 20 morti, ma probabilmente questa cifra è destinata a salire in ragione anche del numero di molti feriti gravi che sono stati evacuati negli ospedali. Quindi è una situazione di grande emergenza, di grande preoccupazione e che andrà seguita minuto per minuto. Quindi tutto quello che io le posso dire adesso, fra 10 minuti, potrebbe essere totalmente superato da ulteriori comunicazioni. Questo dunque è l'ambasciatore italiano a Bruxelles, Vincenzo Grassi. Spostiamoci proprio a questo punto alla Farnesina, da dove immagino che le indicazioni Alessandra Schepisi non siano molto diverse inevitabilmente, no? La situazione è ancora troppo confusa per poter dire ci sono italiani, non ci sono italiani, però insomma, qualche reazione quantomeno dal ministro degli Esteri arriva, no? Sì, è così Simone, la notizia, come dire, va presa molto con cautela, cioè le autorità belghe avrebbero fatto sapere che per ora non risulterebbero italiani coinvolti, ma i condizionali sono tutti d'obbligo, dunque una notizia che va presa con cautela. La comunità italiana all'estero, come sappiamo, è molto numerosa. Il ministro degli esteri Gentiloni ha detto che la situazione è così tesa per cui sono necessarie ancora parecchie ore affinché si chiarisca. tedesca. Dunque non ci saranno diciamo dichiarazioni ufficiali nell'immediato, ci saranno forse nel primo pomeriggio. Gentiloni, a cui ha aperto il Consiglio degli Italiani all'estero, noi giornalisti non possiamo accedere, ma ci è stato riferito che il ministro ha chiesto di osservare un minuto di silenzio per le vittime, ha parlato poi di attacco pianificato di dimensioni molto gravi, ha fatto sapere appunto di seguire con il fiato sospeso l'evolversi della situazione. Tutte le strutture della nostra diplomazia, ha detto, sono state attivate per prestare la massima assistenza ai nostri connazionali. È stato chiesto ai nostri connazionali di non mettersi in viaggio. È stato anche messo a disposizione un numero per l'emergenza, 06 36 225. Gentiloni poi riferisce di aver anche parlato con il ministro degli esteri belga, che sta appunto lavorando con le ambasciate. A lui ha ovviamente espresso la massima solidarietà. Dunque seguiamo l'evolversi della situazione e speriamo nelle prossime ore di avere delle notizie ufficiali. Allora Alessandra, ringrazio anche te nel frattempo, poi magari torneremo a sentirci più avanti nel corso di questo speciale che andrà in onda fino alle 14. Vi ricordiamo oggi appunto programmazione speciale complessiva, andremo avanti a raccontarvi quello che sta succedendo a Bruxelles, i contorni, i commenti, le analisi su quello che è successo e su quello che succederà nelle prossime ore, sostanzialmente per tutta la giornata, quindi non andrà in onda nemmeno effetto giorno, come non sta andando in onda Melog per chi è abituato ad ascoltare Gianluca Nicoletti a quest'ora. Ci sarà uno spazio dedicato al giornale radio subito dopo le 13, poi ritorneremo appunto con lo speciale che proseguirà con Anna Rita D'Ambrosio dalle 14 alle 16 e poi continueremo ad andare avanti a parlarvi di quello che sta succedendo. Vogliamo fare anche un punto italiano dal lato della sicurezza, nell'attesa che di quello che può emergere dalla riunione convocata oggi dal ministro dell'Interno Angelino Alfano. Lo facciamo con Andrea Viali. Andrea, eccoci. Sì, buongiorno Simone. Il ministro Alfano, che si trova da questa mattina, ha annullato tutti i suoi impegni e si trova da questa mattina nel suo ufficio qui al Viminale, da dove vi sto parlando e dove per le 15 ha convocato questa riunione a cui accennavi, riunione del Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, nella quale chiaramente verranno valutate ulteriori misure di contrasto e di prevenzione con le quali fronteggiare questa nuova minaccia terroristica. Chiaramente per quanto riguarda il nostro paese, la riunione, come dicevi prima, probabilmente sarà presieduta dal presidente del Consiglio Renzi. Quello di Bruxelles è stato un efferato attacco terroristico con il quale è stato colpito il cuore dell'Europa, è stato il primo commento questa mattina di Alfano. Sul fronte interno, dopo gli attentati, naturalmente sono state subito rafforzate, probabilmente lo avete detto nel corso di questo speciale, sono state rafforzate le misure di sicurezza, per la verità già elevate anche negli aeroporti italiani, a partire da quello di Fiumicino e di Malpensa, dove sono stati anche cancellati diversi voli in arrivo e in partenza per Bruxelles. C'è massima allerta per restare qui a Roma, anche attorno alla città del Vaticano, alla Santa Sede, dove comunque anche qui i controlli sono molto accurati già da settimane, considerato che il Vaticano è ritenuto uno dei principali di quelli che vengono definiti obiettivi sensibili, soprattutto dalla partenza, dall'inizio a dicembre del Giubileo della Misericordia. Simone. Allora ti ringrazio Andrea, anche con te magari torneremo a collegarci più tardi per capire se ci sono ulteriori aggiornamenti da questo lato, anche se ovviamente gran parte delle notizie, ammesso che arrivino, arriveranno dalla riunione di questo pomeriggio. Allora abbiamo degli aggiornamenti, perché a quanto pare, stiamo verificando un attimo, a quanto pare sarebbe arrivata una prima rivendicazione, ne parliamo subito dopo il traffico. Ed eccoci di nuovo allo speciale di Radio 24 dedicato a quello che sta avvenendo a Bruxelles, gli attentati di questa mattina. Abbiamo degli aggiornamenti con la nostra Valeria De Rosa, perché insomma pare che sia arrivata questa rivendicazione. Sì, diciamo, no? Che mentre per tutta la mattina si è parlato di come sui social media jihadisti si esultava per questo doppio attentato a Bruxelles, sarebbe arrivata la rivendicazione ufficiale. Lo Stato Islamico rivendica gli attentati di oggi, questo è quanto riferisce l'agenzia AMAC, legata al Califfato Nero e considerata organo media dell'organizzazione terroristica. Questo quindi una prima indicazione di rivendicazione, vedremo poi naturalmente come se veramente c'è un qualche collegamento, come era circolata voce questa mattina con l'arresto di Saleh Abdeslam, il terrorista ricercato per gli attentati di Parigi e a lungo l'uomo più ricercato d'Europa, che è stato arrestato solamente 4 giorni fa, è stato arrestato proprio a Bruxelles, è stato arrestato nel quartiere di Molenbeek, e vedremo appunto se c'è un collegamento con tutto questo. Intanto vogliamo occuparci di quello che sta anche succedendo nei cieli in queste ore, perché di pochi istanti fa la notizia che Alitalia ha cancellato tutti i voli odierni da e per Bruxelles, e noi abbiamo in linea il dottor, l'ingegnere Giuseppe Daniele Carrabba, che è il direttore centrale del coordinamento aeroporti dell'ENAC, che è già intervenuto nel nostro speciale precedente. È intervenuto prima che ci fosse una riunione di coordinamento su tutti questi temi. Questa riunione forse è finita e forse possiamo avere un po' di chiarezza su quello che succederà nelle prossime ore per chi deve viaggiare, in particolare per chi deve viaggiare verso Bruxelles, e non solo, perché qualche problema di frontiere chiuse inizia ad esserci. Di nuovo buongiorno Carrabba e benvenuto. Sì, buongiorno a lei. Allora, che indicazioni ci dà da questa riunione di coordinamento che avete avuto? Guardi, le riunioni di coordinamento si stanno svolgendo nelle varie direzioni aeroportuali, quindi ci sono comitati di sicurezza aeroportuali, come avevo anticipato, che si stanno svolgendo insieme a tutti gli operatori ovviamente dell'aeroporto interessato, cercando di ragionare su eventuali misure preventive. Che significa un presidio maggiore dell'aerostazione, sia all'interno che all'esterno dell'aerostazione stessa, in situazioni di assembramento di personale. Abbiamo ovviamente il problema della riprotezione dei passeggeri, le compagnie aeree si sono già attivate segnalando appunto ai passeggeri che saranno riprotetti e dando l'assistenza prevista dai regolamenti europei applicabili. È ovvio che in questo momento stiamo in qualche maniera pagando tutti quanti la situazione di Bruxelles, che significa il fatto che l'aeroporto sia bloccato, che significa che gli inquirenti stanno collezionando gli elementi a disposizione, che poi faranno parte ovviamente di una discussione di alto livello fra l'intelligenza. Tra l'altro Carrabba, dal punto di vista degli snodi aeroportuali europei, Bruxelles è, come dire, importante, insomma. Assolutamente nevralgico. Noi fra l'altro stiamo collezionando tutti i voli cancellati. Lei accennava dall'Italia che ha deciso di cancellare, ovviamente in una situazione di incertezza totale, non sapendo quando riaprirà Bruxelles. La situazione sicuramente è più normale che possa accadere la cancellazione, perché non ci sarebbe, come dire, spazio di manovra in questo momento. È veramente fortemente influenzata dall'evento stesso. Certo. Però tenga conto che alle 3, come avevo anticipato, ci sarà. Sì. Il Comitato di Ordine Pubblico Nazionale presieduto, e ci sarete anche voi, immagino. Ci sarete anche voi, immagino, come il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, certo. Che è ovviamente l'organo vigilante nel nostro caso, e loro sicuramente ci sono. Quindi, e poi avremo Carrabba, mi fa capire una cosa: quindi ci sono ulteriori margini per incrementare la sicurezza all'interno degli aeroporti, secondo lei? Guardi, io credo che il livello che noi oggi adottiamo, che è quello, diciamo, superiore previsto dopo i fatti di Parigi, quindi non in una situazione normale, quindi noi stiamo viaggiando in una situazione di maggiore attenzione e cautela dopo i fatti di Parigi, sia in questo momento sufficiente, a meno che non vengano fuori dall'intelligence informazioni tali che possono portare all'ulteriore innalzamento previsto oggi al Programma Nazionale di Sicurezza Nazionale, che però significherebbe veramente creare dei grossi rallentamenti in quello che è l'attività del trasporto aereo nazionale. Quindi io oggi non ci sono elementi e quindi non posso pensare a una cosa di questo genere, perché ripeto, quello diventerebbe veramente pesante e anche difficile da gestire. È anche difficile da gestire per voi. Se certo. Ci sono problemi di sicurezza, tutto è comprensibile, quindi anche il passeggero accetta tutto, sì, in questi casi. Però non ci sono oggi i presupposti, perlomeno in questo momento. Perché questo avvenga. Allora, io la ringrazio e sicuramente nell'arco della giornata vedremo come evolverà anche questo lato della vicenda, che ovviamente, e lo diciamo insomma non con, con tutto rispetto ovviamente per il lavoro che sta facendo l'ENAC e che stanno facendo le compagnie aeree, non è quello centrale. Dunque, prima di chiudere questa parte dello speciale, poi ci sarà una breve pausa pubblicitaria, c'è il giornale radio nel quale ci saranno di nuovo aggiornamenti su questo e anche le altre notizie, poi ritorneremo con lo speciale. Prima di chiudere, si diceva, con Valeria De Rosa riassumiamo un po', quantomeno dal punto di vista dei numeri, quello che sappiamo. Valeria. È successo, sì, quello che è successo stamattina. Prima però, Simone, velocissimamente, quello che vedo adesso su Twitter, le immagini dai domani dove ci sono i migranti con in mano cartelli con scritto sorry for Brussels. Quindi, diciamo, le notizie come viaggiano in fretta e come si snoda la solidarietà da un capo all'altro e per motivazioni molto, molto diverse. Allora, dicevamo, intanto le notizie che ci ha dato l'ambasciatore italiano, e cioè che al momento non è possibile stabilire davvero se ci siano italiani coinvolti, al momento però non ci sarebbero italiani nei gli ospedali di Bruxelles, e quindi questo ci potrebbe far ben sperare, però i numeri sono davvero terribili, quelli che arrivano dalla capitale belga, sono numeri ancora in evoluzione, si parla di 26 morti e oltre 130 feriti. Come lo dicevamo, bilancio assolutamente provvisorio, staremo a vedere. Ripiloghiamo velocissimamente le esplosioni: due esplosioni all'aeroporto questa mattina poco prima delle 8, un'altra esplosione subito dopo nella metropolitana di Bruxelles in centro. E adesso perquisizioni in corso, torneremo a parlarne nel giornale radio tra un attimo e poi nella prosecuzione dello speciale a partire dalle 13 dopo il GR. Ed eccoci di nuovo una buona giornata da Simone Spezia per gli speciali che stiamo dedicando agli attentati che sono avvenuti questa mattina a Bruxelles. Come si diceva, proseguiremo fino alle 14, poi dalle 14 alle 16 un altro speciale condotto da Narita D'Ambrosio, se ne occuperà anche Oscar Giannino, ci sarà anche Sebastiano Barisoni, e poi cambierà tutta la nostra programmazione per dedicare appunto la nostra programmazione a questi attacchi che hanno colpito, come qualcuno ha detto, il cuore dell'Europa e, se vogliamo, anche il cuore delle istituzioni europee. Per riassumere brevemente, prima di tornare a collegarci con la stessa Bruxelles, ad avere un quadro della situazione al momento, vogliamo appunto riassumere un po' che cosa è successo. È successo che questa mattina intorno alle 8 ci sono state due esplosioni all'aeroporto di Zaventem. Alcuni media hanno riportato che ci sarebbero stati degli spari e delle urla in arabo prima che tutto avvenisse. Le esplosioni sarebbero avvenute, ma ovviamente sono in corso le verifiche di polizia proprio su questo, nei pressi di un check-in dell'American Airlines, e un'altra esplosione forse vicino ad un negozio di Starbucks. In mattinata si sono diffuse voci incontrollate su altre bombe che sarebbero state trovate inesplose all'interno dell'aeroporto, ma anche su questo al momento non ci sono conferme. A quanto pare invece sarebbe stato trovato sempre all'interno dell'aeroporto un Kalashnikov, aeroporto che dunque resta chiuso sia ai voli in uscita che ai voli in entrata, i passeggeri che vengono fatti evacuare, ed evidentemente un aeroporto, quello di Bruxelles, che chiaramente non è ancora in sicurezza. L'altra esplosione è avvenuta poco dopo, è avvenuta alla fermata della metropolitana di Maelbeek. Dove siamo? Siamo nella piena zona delle istituzioni europee, è la fermata della metropolitana che viene utilizzata costantemente da chi lavora nelle istituzioni europee, perché siamo a 400 metri di distanza, non in linea d'aria ma proprio a piedi, 400 metri di distanza dai palazzi della Commissione europea. Inizialmente si era pensato che ci fossero state esplosioni anche in altre stazioni, ma queste voci che si sono diffuse sono state successivamente smentite. Il quadro delle vittime al momento: il bilancio provvisorio parla di 26 morti e oltre 130 feriti, di cui molti sono in gravi condizioni. Il ministro belga della Sanità ha detto che all'aeroporto sono rimaste uccise 11 persone e ne sono rimaste ferite 81. Lo scenario dell'aeroporto, da quello che abbiamo visto dalle foto e dalle immagini che sono state diffuse da chi si trovava all'interno al momento degli attentati, sono delle immagini letteralmente devastanti, perché da fuori si vedono queste grandi vetrate completamente distrutte, all'interno si vedono i soffitti crollati e quindi oltre all'esplosione probabilmente molte persone sono rimaste ferite o sono rimaste uccise a causa anche appunto del crollo dei soffitti. Meno chiarezza abbiamo su quello che è successo a Malbec. Di certo sappiamo che ci sono al momento 15 morti e 55 feriti. Per quanto riguarda la situazione degli italiani, che è l'altro tema che ci si sta ponendo in questi minuti, come avete sentito e come ha raccontato anche l'ambasciatore italiano a Bruxelles nell'intervista che vi abbiamo trasmesso poco fa a firma di Maria Luisa Pezzali, in questo momento non solo non sappiamo se ci siano italiani, sembra che non ci siano, questo è quello che dicono le autorità sanitarie belghe, ma soprattutto non sappiamo di che nazionalità siano le persone che sono rimaste uccise, in particolare nell'attentato dell'aeroporto ma anche in quello di Malbec. Perché? Perché è una fase estremamente confusa, una fase nella quale la città è sostanzialmente blindata, nella quale è molto difficile fare verifiche. Immaginate l'afflusso di persone che arriva in un ospedale quando avvengono cose di questo genere, quindi anche verificare le identità al momento delle persone che sono rimaste uccise o che sono rimaste ferite è estremamente difficile. Al momento, diciamo, dalle autorità italiane da questo punto di vista sono arrivate delle rassicurazioni. È stata elevata l'allerta e tra poco ne torneremo a parlare anche nel nostro paese, è stata elevata anche in altri paesi, la Francia ha deciso di schierare altri 1600 uomini, ha parlato il presidente francese François Hollande, ha detto insomma che la lotta contro il terrorismo sarà durissima, lo stesso Hollande ha detto è stata colpita al cuore l'Europa. E nel frattempo che cosa avviene? Avviene che i confini, le frontiere vengono chiuse, quella tra la Germania e il Belgio, viene chiusa quella tra il Belgio e la Francia, anche se non per così dire ufficialmente, con una decisione ufficiale, questo avviene sostanzialmente perché i treni da un posto all'altro sostanzialmente non viaggiano più e volare su Bruxelles in questo momento non si può volare, quindi che sia una decisione ufficiale o non lo sia, la sostanza è che le frontiere sono chiuse anche perché si continuano a cercare persone. A quanto sembra, voci diffuse poco fa dalla TV Panaraba Al Arabia, ci sarebbero stati gli arresti di due sospetti, ma secondo quello che riferisce un esperto di antiterrorismo, ed è una notizia battuta dall'agenzia ANSA proprio poco fa, ci sarebbero cinque persone in fuga delle quali si sospetta e che si stanno cercando. Tutto questo, da ricordare, avviene a 4 giorni dall'arresto del terrorista, considerato l'uomo più ricercato d'Europa, protagonista dell'organizzazione degli attentati di Parigi, quello al Bataclan e quello allo stadio, tutti gli attentati che hanno colpito la città, Salah Abdeslam, che a quanto pare avrebbe iniziato a collaborare. Abbiamo una prima rivendicazione. Questa rivendicazione arriverebbe dal sedicente Stato Islamico, ossia dall'ISIS. Questo è il quadro complessivo della situazione. Tra un attimo torneremo a collegarci con Bruxelles, ma prima il traffico. L'audio che sentite arriva proprio dall'aeroporto negli istanti che seguono proprio appunto gli attentati che ci sono stati questa mattina. Notizie pochi istanti fa, l'Università Libre de Bruxelles, con oltre 20.000 studenti in 3 campus, è stata interamente evacuata, lo hanno deciso le autorità. Come sapete, sempre dopo attentati terroristici di questo tipo, ci sono una serie di allarmi che partono, alcuni fondati, altri non fondati. Per esempio questa mattina, sempre in Belgio, è stata chiusa momentaneamente la stazione di Anversa, poi è stata riaperta. Torniamo dunque all'aeroporto dal quale abbiamo sentito quest'audio e torniamo da Maura Bertanzon, così come ci siamo collegati con lei all'inizio del nostro speciale a mezzogiorno e così come ci faremo accompagnare da lei evidentemente nell'arco di questa giornata, che si trova là per avere un quadro della situazione. per capire che cosa sta succedendo, che cosa riuscite a vedere ovviamente voi colleghi giornalisti che non potete evidentemente entrare nell'aeroporto, e che cosa sta succedendo ai passeggeri. Maura, eccoci. Ciao Simone, ma in realtà qui la situazione ormai è sulla via della normalizzazione, non si sentono più sirene, tutti i passeggeri, credo, o quasi tutti perlomeno, sono stati portati via con moltissimi autobus, specialmente nella seconda parte della mattinata, dunque la situazione, questo per quanto riguarda appunto l'evacuazione dei passeggeri, credo si sia ormai quasi del tutto risolta. Posso dire che le strade intorno all'aeroporto comunque sono tutte chiuse e bloccate dalla polizia, è difficile anche tornare verso la città, dunque c'è stata una risposta anche tardiva, diciamo, nella gestione stessa dei passeggeri. Ho incontrato un passeggero che doveva prendere un volo per la Spagna per andare in vacanza e mi raccontava che si trovava già al di là dei controlli, quindi non dove ci sono state le esplosioni, ma che non hanno ricevuto praticamente nessuna indicazione per moltissimo tempo dagli speaker. Subito dopo le esplosioni c'è stato avevano la voce strozzata, lo stesso messaggio in diverse lingue non aveva gli stessi contenuti, parlavano di una minaccia che stavano affrontando, ma non specificavano se era un attacco o meno. E anche l'evacuazione stessa, questa persona ha visto tutta la gente correre lungo il corridoio del terminal principale di Bruxelles, che è un corridoio lunghissimo, e accalcarsi tutti in uno stesso punto, impauriti, perché appunto le autorità dell'aeroporto non sapevano effettivamente come gestirli. Molti invece sono usciti, hanno preso la via della pista per uscire, per cercare sicurezza, e sono appunto stati radunati, si parla di credo 2000 persone che si sono trovate nel punto del vettore di HL, e poi sono riuscite a uscire dall'aeroporto esternamente, appunto camminando addirittura nelle piste e cercando appunto di raggiungere l'uscita, il varco dove appunto sono questa mattina, per osservare come si evolve la situazione. Allora, questo è il quadro complessivo che sta arrivando evidentemente dall'aeroporto, quindi situazione al momento relativamente tranquilla, posto il fatto, Maura, che ovviamente ci sono dentro le forze dell'ordine a far tutte le verifiche che devono fare, tutti i controlli che devono fare, ovviamente stante il fatto che l'aeroporto è chiuso, no? Sì, certo, rimane chiuso, i voli appunto sono tutti sospesi, gli aerei sono fermi in pista, non si muove nulla, però appunto credo che il momento critico dell'emergenza sia in questo momento sfumato, non si sentono più andirivieni di sirene come era invece nelle prime ore del mattino. Grazie, grazie Maura Bertanzon per essere stata con noi e per averci aggiornati ancora una volta su quello che sta succedendo all'aeroporto. Veniamo a qualche altra testimonianza. Iniziamo da una voce che abbiamo raccolto questa mattina nell'immediato, subito dopo gli attentati che hanno colpito la stazione della metropolitana di Mailbeck, appunto nella piena zona delle istituzioni europee. La testimonianza è di una giornalista che si occupa anche di uffici stampa, si chiama Alessandra Flora, l'abbiamo raggiunta nel suo ufficio, il suo ufficio è esattamente sopra questa stazione e questo è stato il suo racconto. Il mio ufficio si trova esattamente sopra la stazione della metro Malbec, quindi io e la mia collega eravamo qui dentro quando abbiamo sentito l'esplosione e chiaramente ci siamo molto preoccupate, ci siamo affacciate alla finestra, abbiamo visto il fumo uscire dalla stazione e poi i feriti che sono stati posti sul marciapiede, è stato chiaramente terribile, insomma, e continuano i feriti a essere portati via dalle ambulanze sul rio della Loire, quindi nel cuore del quartiere europeo. Adesso siamo in ufficio e aspettiamo di capire cosa possiamo fare, perché forse non è il caso di uscire, però insomma è proprio qui sopra, quindi io, ringraziando Dio, oggi avevo il sentore che qualche cosa dopo l'esplosione all'aeroporto potesse succedere ancora, e quindi per questo motivo ho deciso di uscire prima dalla metropolitana, di non uscire quindi alla metro Malbec, ma di uscire prima. È molto scioccante, nel senso che è proprio successo qua sotto, quindi mi sento quasi una miracolata, perché poi il quartiere è completamente impazzito, quindi sono solo macchine dell'auto, della polizia, autoambulanze, feriti che vengono portati, ecco, anche di fronte c'è, cioè, un albergo, un grande albergo dove vengono deposti, insomma, i feriti per il primo soccorso, quelli che non vengono portati dall'autoambulanza, e però insomma è abbastanza scioccante il tutto, sì, direi la parola giusta. E non lontano da quel quartiere dove appunto la situazione ci è stata descritta come scioccante, forse proprio in quel quartiere vive l'avvocato Paolo Brandi, che è in linea con noi e che lavora, vive e lavora a Bruxelles. Avvocato Brandi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie di aver ascoltato anche la mia testimonianza. Vorremmo sentire, perché ovviamente la comunità italiana a Bruxelles per ovvi motivi è molto fitta e stiamo cercando di raccogliere le vostre voci per capire come si sta vivendo anche nella città in queste ore. Ci racconti un po' che quadro vede e che cosa è successo stamattina. Ma il quadro è sicuramente molto teso. Stamattina ci siamo svegliati appunto con queste notizie che si susseguivano rapidamente. E io abito da 2 anni qui a Bruxelles, tra l'altro non lontano anch'io dal luogo delle esplosioni nelle metro di Schuman e Maelbeck. Abito a 2 passi dal Parlamento europeo. La situazione è sicuramente molto critica, però c'è da parte della comunità italiana e della cittadinanza tutta di Bruxelles la volontà che traspare in queste ore di non dar la vinta al terrorismo, non lasciare che la paura prevalga e che si venga a propagare nella popolazione un sentimento di terrore. Devo dire che la città di Bruxelles si sta organizzando molto bene, so che in queste ore la Croce Rossa sta cercando dei donatori di sangue, quindi si stanno mobilitando le forze dell'ordine e le associazioni di volontariato, le associazioni presenti nei vari strati del sociale per fronteggiare questa crisi. Allora la ringrazio, grazie per la sua testimonianza, e ne vogliamo raccogliere un'altra, quella di Simona Ferrulli. Anche lei lavora e si trova vicino alla stazione della metropolitana dove c'è stata l'esplosione. Buongiorno. Buongiorno. Allora, come ha vissuto la mattinata lei? Ma guardi, sono arrivata in ufficio che erano appena successi i fatti dell'aeroporto, e quindi ero già qui quando ci sono state le esplosioni a Maelbeck, la stazione della metropolitana. Ovviamente siamo tutti preoccupati, abbiamo prima tutti, io e i miei colleghi, ci siamo assicurati che le persone che conosciamo qui a Bruxelles stessero bene, che non conoscessimo nessuno che avesse bisogno d'aiuto, che peggio avesse riportato ferite o ancor peggio. E adesso io lavoro a 50 metri da Maelbeck, quindi ci è stato richiesto di non uscire fondamentalmente, di aspettare qui fino a nuove comunicazioni, quindi stiamo aspettando di poter uscire. Sappiamo già che per il resto della giornata e per domani i nostri uffici saranno chiusi. Ah, ok, saranno chiusi gli uffici, evidentemente non ci potrete andare, è evidente, la città è blindata, lo abbiamo detto, sono chiuse praticamente tutti i trasporti pubblici, perché oltre al trasporto aereo del quale abbiamo ampiamente parlato, oltre al trasporto su treni, quello diciamo così in movimento dalla Francia o dalla Germania, quello è fermo, ovviamente saranno anche chiusi gli uffici. Si continuano a cercare delle persone, si continuano a cercare dei sospetti, a quanto pare. Grazie anche a lei. Noi ci fermiamo, c'è la borsa, ci ritroviamo tra un attimo e proseguiamo col nostro speciale. Ed eccoci di nuovo una buona giornata da Simone Spezia e bentornati a questo speciale che stiamo dedicando agli attentati avvenuti questa mattina a Bruxelles. 3 esplosioni, 2 avvenute all'aeroporto, un'altra in una stazione della metropolitana. Secondo alcuni media belgi il numero di vittime è salito al momento a 34, sono oltre 100 i feriti, di cui alcuni in gravi condizioni. Ancora grande incertezza sulla nazionalità, al momento viene escluso che ci siano degli italiani, ma insomma non è ancora confermato. L'altra notizia che è arrivata è quella che riguarda la rivendicazione della quale vi abbiamo parlato poco fa, una rivendicazione arrivata dall'ISIS, dal califfato, il quale in questa minaccia riferita dal quotidiano egiziano Al-Watan promette altre operazioni in Europa. Dice Daesh, questa operazione si è basata su una pianificazione e attuazione a grande velocità, senza però fornire appunto dettagli sull'operazione. Tra un attimo torneremo appunto su quello che c'è dietro questo attentato, che tra l'altro, lo ricordiamo, arriva 4 giorni appunto dall'arresto di Salah Abdeslam. Lo faremo con Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore, ma prima di tutto vogliamo tornare da Daniele Prestigiacomo, che si trova davanti, è un collega giornalista dell'agenzia Vista, si trova davanti alla stazione, almeno c'è stato fino a poco fa, non so se se ne sia andato negli ultimi minuti, davanti alla stazione dove è avvenuto l'attentato, la stazione della metropolitana, per farci dare un quadro. Eccoci qua, vai. Sì, buonasera. Io adesso in realtà sono all'interno del Consiglio europeo, che è proprio a fianco della fermata metro. Fino a poco fa la situazione vista dal posto di blocco che la polizia chiaramente istituito intorno alla fermata, insomma, è quella di un sono immagini di soccorsi e di parenti che accorrono per sapere, per avere notizie di chi ovviamente dei cari che sono stati coinvolti. È stato si usano tutti gli strumenti a disposizione, il Palazzo della Stampa, il Residence Palace e un albergo privato, il Ton di Bruxelles, che sta lì in Rue de la Loi, hanno subito messo a disposizione le proprie hall per i primi soccorsi, per anche i primi punti, le prime unità di crisi che sono state istituite subito dopo l'attentato. E in questo momento purtroppo il numero delle vittime continua a salire anche qui a Malbec. Si parlava di 15 persone, ma a quanto risulta ce ne sarebbero altre vittime, e il numero dei feriti anch'esso tende a salire di ora in ora, come è normale che sia in queste situazioni. Ti ringrazio e ti auguro ovviamente buon lavoro per questa giornata, sicuramente complicata anche per chi vive a Bruxelles. Oltre a quello che è successo, c'è una città sostanzialmente blindata. E siamo, anzi prima vi do un aggiornamento che arriva proprio dalle autorità belghe, le quali dicono di temere che altri attacchi possano essere lanciati a Bruxelles o nel resto del paese, quello che riportano diversi media locali, sottolineando che al momento la principale preoccupazione è quella di soccorrere le vittime e mettere in sicurezza gli obiettivi sensibili, già perché pare, qualche esperto di sicurezza lo ha già detto e scritto, che ci siano varie persone in fuga dopo questi attentati, non uno o due ma 5. Un'altra voce che non è stata confermata e che è arrivata in mattinata è che, diffusa da Al-Arabiya, che ci sarebbero stati 2 sospetti fermati proprio per gli attentati che sono avvenuti all'aeroporto di Bruxelles e alla stazione della metropolitana. Andiamo dunque da Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore. Ugo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Allora, qualcuno questa mattina, Ugo, ha già iniziato a collegare l'arresto dell'uomo più ricercato d'Europa, Salah Abdeslam, quello che è considerato una delle menti e sicuramente il personaggio più importante nell'organizzazione degli attentati di Parigi, e l'attentato che ha colpito Bruxelles. Secondo la tua idea, tu come la vedi? Beh, per cominciare trovo paradossale o forse tragico pensare che sono 2 ore fa sono rientrato in Italia, nella pericolosissima Europa, da un posto estremamente tranquillo che si chiama Beirut. Però questo è il paradosso tragico dell'Europa di oggi. I collegamenti sono, che dicevi, sono tanti, ed è molto probabile, per esempio, che l'attentato appunto stamattina sia venuto 4 giorni dopo l'arresto dell'uomo più ricercato, che stava dalle parti di casa sua come un mafioso in Sicilia. È avvenuto probabilmente proprio perché temevano che questo parlasse, che Abdeslam parlasse e che raccontasse che era in programma appunto qualche attentato importante, come, dove, quando. È anche pensabile che in realtà non sia scappato dallo stadio delle Stade de France perché si è spaventato, ha avuto paura di farsi saltare in aria, ma che forse questo facesse parte di un progetto ben più ampio e che forse non è ancora finito. La cosa più evidente, appunto, come dicevo, è la totale preparazione dei nostri servizi di sicurezza, i nostri intendo dire europei, poiché siamo europei oltre che italiani. Però credo che sia, non sia questo il momento di dire cosa non funziona, l'Europa che è in crisi, l'Europa che non riesce a fare trovare una soluzione sui profughi, non riesce nemmeno a trovare un modo unitario per combattere il terrorismo che sta colpendo direttamente noi. Credo che adesso sia finito il momento, però oggi sicuramente sentiremo, forse qualche politico già si è lanciato anche di casa nostra, i soliti a dire appunto che il governo sbaglia, i governi sbagliano, l'Europa non c'è, eccetera. Ma credo che sia il momento dell'unità, il momento in cui bisogna trovare delle soluzioni, il momento in cui non bisogna litigare, perché siamo solo all'inizio, molto probabilmente, non vorrei essere menagramo, ma mi pare estremamente evidente che siamo molto solo all'inizio di una lunga lotta che è cominciata nei nostri paesi e di fronte alla quale noi dobbiamo dimostrare la forza e il carattere che ha permesso all'Europa di diventare quello che è diventata. E a tuo giudizio in che modo? Perché tu dicevi, insomma, è una lotta che è iniziata e che è arrivata nei nostri paesi, hanno colpito Parigi e poi hanno colpito Bruxelles e forse colpiranno altre città europee nei prossimi mesi. Certo, Ma il tema, scusa Ugo, mi sembra di capire che il tema è sempre quello, cioè la stabilizzazione dell'area dalla quale questo mondo proviene. No, certo, è evidente che finché non si chiude il caos della partita medio orientale, che appunto è il punto cruciale, il luogo di partenza della destabilizzazione complessiva, essenziale per vincere la battaglia di cui dicevo prima. E naturalmente possiamo anche di nuovo parlare per la millesima volta delle responsabilità europee, del bombardamento di Tripoli, dell'invasione dell'Iraq, della guerra in Afghanistan, che certamente ci sono un fatto, ma se continuiamo a restare su questo, il problema non verrà risolto. Benissimo, sono stati commessi degli errori, sono stati messi agli atti, tragicamente agli atti. Adesso non è più il momento di parlare di queste cose. Benissimo, ok, è stato francesi e inglesi hanno sbagliato a bombardare Tripoli, gli americani hanno commesso gli errori pazzeschi, ma se, la consiglio un'intervista molto importante che è uscita su The Atlantic Monthly, un mensile politico americano, una lunghissima intervista a Barack Obama, bellissima, dove esce la dottrina Obama, quando Barack Obama dice che il terrorismo non è una minaccia esistenziale all'Occidente, ma lo è molto di più, non solo all'America, all'Europa, ma all'Occidente, l'inquinamento atmosferico. Ha perfettamente ragione, assolutamente ragione. Il problema è che però adesso noi stiamo combattendo quella battaglia è un'emergenza. Quindi Barack Obama da un lato ha ragione, ma sbaglia profondamente. Il problema è che anche gli americani hanno questo problema. È vero che non c'è più l'11 settembre, ma i terroristi in questi ultimissimi anni hanno colpito da Boston fino alla California e adesso stanno colpendo in Europa. Quindi è una battaglia che dobbiamo fare insieme, smettendo appunto di essere così egoisti, perché poi fino a pochissimo tempo fa anche la trasmissione delle informazioni da un servizio segreto europeo a un altro servizio segreto europeo era estremamente difficile. Sì. Perfino in Belgio era perfino difficile, come dire, trasferire le informazioni dalla polizia di lingua francese alla polizia di lingua olandese. Ecco, sì. Sappiamo che cosa fare, abbiamo avuto minacce ben più, l'Europa, l'Occidente ha avuto minacce ben più importanti del terrorismo islamico. Quindi occorre la volontà politica. Ovviamente. Quindi questo è il quadro e la tua analisi su questa vicenda. Ti ringrazio. Grazie a Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore. Prima di andare a sentire che cosa succede sulle strade e poi ci collegheremo con Mario Platero, come sapete alle 13.45 di solito quotidianamente c'è America 24. Oggi sfrutteremo il nostro Mario Platero che è in viaggio insieme ad Obama a Cuba per capire qual è il sentimento e se già è riuscito a raccogliere qualcosa di quello che pensano gli americani di quello che è successo oggi a Bruxelles. Però prima ci sono un paio di notizie di cronaca decisamente importanti. La prima arriva, sono notizie che arrivano dai media belgi, la prima è che la polizia sta ancora ispezionando lo scalo di Zaventem, dove la minaccia è considerata ancora attuale. Che cosa vuol dire? vuol dire che gli agenti non sono convinti che tutti i terroristi siano usciti dall'aeroporto dove appunto è avvenuto il doppio attentato. Forse ci sono ancora dei terroristi nello scalo, ma appunto su questo non c'è ancora chiarezza. Le stesse autorità belghe hanno dichiarato poco fa che temono che altri attacchi possano essere lanciati a Bruxelles o nel resto del paese. E poi l'ultima notizia è l'aggiornamento sulle vittime, che sono, da quel che risulta al momento, 34. Infine, un'ultima nota. Per fortuna abbiamo usato tutti i condizionali del caso nel raccontare che sarebbe stato colpito il banco check-in dell'American Airlines. Ebbene, non è così, non è avvenuto questo all'interno dell'aeroporto di Bruxelles. La smentita arriva direttamente dalla compagnia aerea, che dice: attualmente tutti i nostri dipendenti dell'aeroporto e i membri degli equipaggi sono stati individuati e sono al sicuro, non ci sono feriti. Il check-in dell'American Airlines si trova nella fila 8 dell'area partenza e le esplosioni non sono avvenute nella fila 8. Traffico. Ed eccoci di nuovo, e di nuovo una buona giornata da Simone Spezia, a testimonianza del fatto che stiamo assistendo a qualcosa che è ancora in corso. Ci sono due notizie che sono arrivate negli ultimi minuti e che riguardano gli attentati avvenuti a Bruxelles. La prima è che, secondo una fonte di polizia, gli agenti che stanno lavorando all'interno dell'aeroporto di Bruxelles, dove questa mattina sono avvenute due esplosioni, l'aeroporto di Zaventem, gli agenti non sono convinti che tutti i terroristi siano usciti dall'aeroporto, e ve l'abbiamo raccontato un istante fa. L'altra notizia appena diffusa dal ministro della sanità è che ci sono diverse persone ancora bloccate alla stazione della metropolitana, nella stazione della metropolitana di Maelbeek, quella dove è esploso il terzo ordigno, e nel frattempo le autorità fanno sapere di temere altri attacchi. Andiamo di nuovo a Bruxelles prima di collegarci con Mario Platero per capire appunto se ci sono, che anzi in realtà già in linea con noi, ma adesso andremo da lui per capire se c'è già qualche reazione, qualche sensazione che è riuscito a raccogliere su quello che è successo, dalla delegazione americana in questo momento in visita a Cuba. Prima sentiamo l'intervista che ha realizzato Maria Luisa Pezzali con Aldo Faraci dell'Istituto Italiano di Cultura a Bruxelles. Perché? Perché vi abbiamo raccontato che è stata sgomberata, e questa è una delle altre notizie arrivate negli ultimi minuti, è stato sgomberato un campus universitario con 20.000 persone dentro, proprio a Bruxelles. Sentiamo Faraci su questa università. È l'università francofona, ma che comunque condivide il campus con diciamo la parte fiamminga, che è VUB anziché ULB, ma comunque stanno sullo stesso campus. È l'università principale qui a Bruxelles, ovviamente. Quindi è un campus molto importante. Si parla di 20.000 studenti evacuati. Sì, può darsi. Anche i luoghi di cultura, voi avete ricevuto in passato segnalazioni come obiettivi sensibili? No. Abbiamo semplicemente noi deciso di sospendere ovviamente l'attività, sospendere anche i corsi da oggi. Ho appena aggiornato il sito in tale senso. Voi dall'ambasciata non avete ricevuto nessuna indicazione particolare? Per il momento no. Mario Platero in diretta da L'Avana. Mario, eccoci, ciao. Eccoci, allora, buongiorno Simone. Sei già riuscito a raccogliere qualcosa, qualche idea dalla delegazione americana? Simone, noi siamo già arrivati qui al grande teatro a L'Avana con la delegazione, perché fra poco parlerà Barack Obama. Uno degli addetti all'ufficio stampa mi ha raccontato che il Presidente ha già chiamato il primo ministro belga Michel per esprimergli solidarietà e cordoglio naturalmente, ma soprattutto abbiamo avuto notizia che sono state aumentate enormemente sia qui attorno al viaggio del Presidente che soprattutto negli Stati Uniti le misure di allerta negli aeroporti, nelle metropolitane, a New York, soprattutto a Washington, insomma in tutti quelli che sono i siti potenzialmente a rischio. Perché? Perché devo dirti che quando ho parlato anche l'altro giorno tra l'altro con un funzionario proprio della sicurezza interna americana del possibile rischio di attentati, questo signore mi diceva che in America ci si aspetta che qualcosa di simile possa capitare, cioè lo mettono nel conto, nel senso che è impossibile fermare una persona qualunque che a un certo punto entra in metropolitana e si fa esplodere, c'è questa casualità e dunque l'America è in forte stato d'allerta, ma è anche molto realista. Lo stesso Obama più volte ha avvertito i cittadini americani del fatto che questi pericoli ci siano, tipo San Bernardino naturalmente, dove c'è stato l'ultimo attentato che possiamo far risalire a una matrice di stampo islamico. Dunque c'è questa atmosfera di grande preoccupazione perché finora succede da altre parti, è già successo anche negli Stati Uniti e ovviamente la paura è che possa succedere perché ci rendiamo conto, soprattutto qua alcuni dei funzionari mi dicevano ma insomma è incredibile che questo sia successo proprio pochi giorni dopo l'arresto di colui che era il responsabile, il mastermind dell'attacco a Parigi, che evidentemente sapeva, perché si sapeva che qualche cosa era in preparazione, eppure sono riusciti a farlo lo stesso. Dunque grande preoccupazione, stato di allerta e per ora questa telefonata, ma non ancora un comunicato ufficiale. Ti ringrazio, grazie a Mario Platero in collegamento da La Habana, che lasciamo al lavoro appunto al seguito del presidente americano Obama. I ringraziamenti per questa parte dello speciale vanno a Filippo Aureggi in regia, a Lorenzo Nespoli e Alessandro Longoni in assistenza in redazione, a tutta la redazione di Radio 24, a Valeria De Rosa che ci ha accompagnato nella prima parte con tutti gli aggiornamenti. Lo speciale torna a partire dalle 14 con Anna Rita D'Ambrosio. Una buona giornata da Simone Spezia.